Karen Blixen, il pescatore di perle. Mira Jama iniziò il suo racconto. A Shiraz viveva un giovane studente di teologia chiamato Saufe. Era molto dotato e puro di cuore. Leggendo e rileggendo il Corano, rimase tanto assorto nel pensiero degli angeli che l'anima sua finì per stare con essi assai più che accanto a sua madre o ai suoi fratelli, ai suoi insegnanti o ai suoi condiscepoli o a qualsiasi altro abitante di Shiraz. Ripeteva a se stesso le parole del Gran Libro: presso gli angeli che strappano con la violenza l'anima degli uomini e presso quelli che guidano con la gentilezza l'anima di altri, presso quelli che guizzano nuotando nell'aria con gli ordini di Dio, presso quelli che precedono e introducono i giusti in paradiso e presso quelli che in sottordine governano gli affari di questo mondo. Il trono di Dio, pensava, ha da essere posto così alto nel cielo che l'occhio dell'uomo non possa raggiungerlo e la mente dell'uomo vacilli di fronte ad esso, ma gli angeli radiosi si aggirano tanto tra gli azzurri saloni di Dio quanto tra le nostre buie case e aule scolastiche. Dovrebbe esserci possibile vederli e comunicare con loro. Gli uccelli, rifletté, devono essere tra tutte le creature le più simili agli angeli. Le sacre scritture dicono appunto: ciò che si muove sia in cielo sia in terra adora Dio e gli angeli pure. E certo gli uccelli si muovono sia in cielo sia in terra. Più avanti dicono infatti degli angeli: non sono tanto superbi da disdegnare il loro servizio, cantano ed eseguiscono ciò che è loro ordinato. E certo gli uccelli fanno altrettanto. Se ci sforzeremo di imitare gli uccelli in tutto questo, diventeremo più simili agli angeli di quanto lo siamo adesso. Ma oltre a tutto ciò, gli uccelli hanno le ali, come le hanno gli angeli. Bene sarebbe che gli uomini potessero farsi le ali per innalzarsi verso le alte sfere, laddove splende luce chiara ed eterna. Un uccello che spinga al massimo la capacità delle sue ali può incontrare o superare un angelo lungo uno dei sentieri selvaggi dell'etere. Forse l'ala della rondine ha sfiorato il piede di un angelo o lo sguardo di un'aquila e nel momento in cui la sua forza stava per esaurirsi ha incontrato i sereni occhi di un messaggero di Dio. D'ora in poi, decise, dedicherò il mio tempo e la mia dottrina a fabbricare per i miei simili ali siffatte. E allora stabilì di lasciare Shiraz per studiare le vie delle creature alate. Fino ad allora, insegnando ai figli dei ricchi e copiando antichi manoscritti, aveva mantenuto sua madre e i suoi fratellini, ed essi si dolevano che senza di lui sarebbero diventati poveri. Ma egli sosteneva che un giorno la sua conquista li avrebbe largamente ripagati delle privazioni attuali. I suoi insegnanti, che gli avevano predetto una brillante carriera, andarono da lui e lo rimproverarono dicendo che se il mondo era andato avanti per tanto tempo senza che gli uomini comunicassero con gli angeli, doveva essere inteso che così fosse, e anche in avvenire doveva essere così. Il giovane li contraddisse rispettosamente. Fino ad oggi, disse, nessuno ha veduto gli uccelli migratori dirigersi verso sfere più calde che non esistono, o i fiumi dirottare attraverso rocce e pianure per correre in un oceano che non può essere trovato, perché Dio non crea una brama o una speranza senza avere pronta una realtà che l'esaudisca. La nostra brama è la nostra certezza. E beati siano i nostalgici perché torneranno a casa. E poi, gridò, trasportato dal corso dei propri pensieri, come meglio andrebbe il mondo dell'uomo se egli potesse consultarsi con gli angeli e da questi imparare a capire il disegno dell'universo, che si leggono pianamente perché lo vedono dall'alto. La sua fede in quell'impresa era tanto forte che alla fine i suoi insegnanti rinunciarono ad avversarlo e pensarono che la fama del loro discepolo avrebbe potuto, nel futuro, riflettersi anche su di loro. Il giovane studente rimase un anno intero con gli uccelli. Suo letto fu l'erba alta della pianura, laddove cinguetta la quaglia, s'arrampicò sui vecchi alberi dove costruiscono il nido il colombo e il tordo, si trovò un sedile tra le foglie e vi rimase tanto in silenzio da non arrecar loro alcun disturbo. vagò sulle alte montagne e proprio sotto le nevi eterne convisse con un paio di aquile osservandole mentre andavano e venivano. Tornò a Shiraz dopo aver fatto tesoro di molte riflessioni e di molte conoscenze e si mise a lavorare alle proprie ali. Nel Corano lesse: «Sia lode a Dio che crea gli angeli forniti di due o tre o quattro paia d'ali», e decise di farsene tre paia, uno per le spalle, uno per la vita e uno per i piedi. Durante i suoi vagabondaggi aveva raccolto molte centinaia di ali da volo delle aquile, dei cigni e delle poiane, si rinchiuse con esse e lavorò con tanto zelo che per molto tempo non vide né parlò con nessuno. Ma lavorando cantava, e i passanti si fermavano ad ascoltare e dicevano: «Il giovane Softa lode Dio e fa ciò che gli è ordinato». Ma quando finì, il primo paio d'ali se lo provò e sentì che con esso aveva il potere di sollevarsi nell'aria, non riuscì a serbare per sé quel trionfo, ne parlò ai suoi amici. Dapprima il gran popolo di Shiraz, i sacerdoti e i notabili, sorrisero udendo della sua impresa, ma quando quella voce si diffuse e fu confermata da molti giovani, essi cominciarono a preoccuparsi. «Se questo ragazzo volante», si dissero, «riesce davvero a incontrare gli angeli e a comunicare con loro, il popolo di Shiraz, come è solito fare quando accade qualcosa di straordinario, impazzirà di stupore e di gioia. Chissà poi quali cose nuove e rivoluzionarie potrebbero mai dirgli gli angeli, perché dopo tutto, osservarono, può darsi che in cielo gli angeli ci siano». Ponderarono la questione e il più anziano di loro, che era ministro del re, si chiamava Mirza Agai, disse: «Questo giovane è pericoloso perché fa grandi sogni, ma è innocuo e sarà facile domarlo perché ha trascurato lo studio del nostro mondo reale, del mondo in cui sono messi alla prova i sogni. Possiamo in una sola lezione confermargli e smentirgli l'esistenza degli angeli, ma non ci sono giovani donne a Shiraz?» Il giorno dopo mandò a chiamare una delle danzatrici del re, una fanciulla chiamata Tushmo. Le spiegò il caso per quel tanto che egli riteneva opportuno e promise di ricompensarla se ella gli avesse obbedito. Ma se avesse mancato al suo impegno, un'altra giovane danzatrice, sua amica, sarebbe stata promossa in sua vece nel gruppo delle danzatrici del re alla festa per il raccolto delle rose da essenza. Fu così che una notte, mentre stava sul tetto di casa sua a guardare le stelle e a calcolare la rapidità con cui avrebbe dovuto viaggiare da una all'altra, lo studente si sentì dolcemente chiamare e, quando vo si voltò, vide una figurina esile e radiosa, vestita d'oro ed argento, ritta sul bordo del tetto coi piedi uniti. Il giovane aveva la mente così occupata dall'idea degli angeli che non dubitò dell'identità della sua visitatrice e, più che dallo stupore, fu sopraffatto dalla gioia. Lanciò un'occhiata verso il cielo per vedere se il volo dell'angelo vi aveva lasciato una scia luminosa, e intanto la gente da sotto portò via la scala che era servita alla danzatrice per salire sul tetto. Poi cadde in ginocchio davanti a lei. Ella chinò il capo verso di lui dolcemente e lo guardò con occhi scuri, frangiati da folte ciglia. «Tu, mio servo Saufe, m'hai portato in cuore per molto tempo», bisbigliò, «e sono venuta a ispezionare la mia piccola dimora. Dalla tua umiltà e dalla tua prontezza ad eseguire la mia volontà dipende la durata del mio soggiorno nella tua casa». Poi si sedette sul tetto a gambe incrociate, mentre egli stava ancora in ginocchio, e parlarono. «Noi angeli», disse, «non abbiamo veramente bisogno di ali per muoverci tra cielo e terra, ci bastano le nostre membra. Se tu ed io diventeremo amici davvero, sarà lo stesso per te, e potrai distruggere le ali alle quali stai lavorando». Tutto tremante nell'estasi, egli le chiese com'era possibile che quel volo si compisse contro ogni legge scientifica. Ella rise di quella domanda e la sua risata era come un campanellino d'argento. «Voi uomini», disse, «amate le leggi e la discussione e avete gran fiducia nelle parole che vi sgorgano tra baffi e barba, ma io ti convincerò che abbiamo una bocca per più dolci dissertazioni e una bocca anche più dolce per altre dissertazioni. Ti voglio insegnare Come sia possibile che angeli e uomini giungano a una perfetta intesa, senza discussione, secondo l'uso celeste, e così fece. Per un mese la felicità del Soft fu tanto grande che il suo cuore non aveva la forza di sostenerla, dimenticò il suo lavoro e si abbandonò tutto all'intesa celeste. Disse a Tushmo: Ora vedo quanto aveva ragione l'angelo Eblis, il quale disse a Dio: Io sono migliore di Adamo. Tu lo hai creato con la sola argilla, ma hai creato me col fuoco. E nuovamente le citò le sacre scritture, sospirando: Chiunque sia nemico degli angeli è nemico di Dio. Tenne l'angelo in casa sua, perché esso gli aveva detto che la vista del suo splendore avrebbe accecato l'ignara gente di Shiraz. Di notte, però, esso saliva con lui sul tetto della casa e insieme guardavano la luna nuova. Ora accadde che la danzatrice rimanesse incantata dal teologo perché egli aveva un bellissimo volto e il suo vigore intatto faceva di lui un grande amatore. Cominciò a considerarlo capace di qualsiasi prodezza. Inoltre, dal suo colloquio col vecchio ministro aveva intuito che il ragazzo e le sue ali lo intimorivano come un pericolo per sé, per i suoi colleghi e per lo Stato, e ora rifletteva che le sarebbe piaciuto veder perire il vecchio ministro, i suoi colleghi e lo Stato. La tenerezza che la provava per quel giovane amico aveva reso il suo cuore tenero quasi quanto il cuore di lui. Quando la luna fu piena e tutta la città fu immersa nella sua luce, i due si sedettero accanto sul tetto. Egli lasciò che le sue mani la carezzassero tutta e disse: Da quando t'ho incontrata, le mie mani hanno acquistato una vita propria. Mi rendo conto che Dio, dando le mani all'uomo, gli ha dato prova di amorosa bontà, come se gli avesse dato le ali. Poi alzò le mani e se le guardò. Non bestemmiare, disse lei, e sospirò lievemente. L'angelo non sono io, ma tu. E le tue mani hanno davvero forza e vita meravigliose. Lascia che io le senta di nuovo e domani poi mi mostrerai le grandi cose che hai fatto con loro. Il giorno seguente, per farle piacere, egli la condusse tutta velata nel suo laboratorio. Allora vide che i topi avevano mangiato le penne da volo delle aquile e che i telai delle sue ali erano spezzati e sparpagliati qua e là. Li guardò e ricordò il tempo in cui vi aveva lavorato sopra. Ma la danzatrice piangeva. Oh, non sapevo che questo fosse ciò che gli intendeva fare, piangeva. Mirza Hagai è dunque cattivo. Sbalordito, il giovane le chiese che cosa volesse dire, ed ella con dolore e indignazione gli rivelò ogni cosa. Ma io, amore, ella disse, non so volare. Sebbene mi dicano che quando danzo sono di straordinaria levità, non essere in collera con me, ma ricorda che Mirza Hagai e i suoi amici sono potenti e una povera ragazza nulla può contro di loro e sono ricchi e posseggono cose stupende e tu non puoi pretendere che una danzatrice sia un angelo. Allora egli cadde bocconi e non disse una parola. Tushmu si sedette accanto a lui e le sue lacrime sgocciolavano nei capelli di lui mentre ella se ne inanellava le dita. Sei un ragazzo meraviglioso, disse. Con te ogni cosa è grande e soave e di paradiso, e io ti amo, non tormentarti, mio caro. Egli alzò il capo, la guardò e disse: Dio ha voluto che solo gli angeli veglino sul fuoco dell'inferno. Nessuno, ella disse, sa citare le sacre scritture in modo più mirabile di te. Egli la guardò di nuovo. Osserva gli angeli quando fanno morire i miscredenti. Essi colpiscono loro il volto e dicono: Senti la scottatura del fuoco, che questa dovrai soffrire per quel che le tue mani hanno fatto. Dopo un attimo, ella le disse: Forse puoi aggiustare quelle ali ed esse saranno belle come fossero nuove. Non posso aggiustarle, egli disse. E ora che il tuo lavoro è compiuto, devi andare, che per te sarà pericoloso rimanere con me, perché Mirza Hagai e i suoi amici sono potenti, e tu devi danzare alla festa per il raccolto delle rose d'essenza. Non scordare, Tushmu, ella disse. No, le rispose lui. Verrai a vedermi danzare? Gli chiese. Sì, se posso, egli rispose. Rialzandosi, ella disse gravemente: Spererò sempre che tu venga, perché senza speranza non si può danzare. E su queste parole se ne andò, tristemente. Sauffè non riusciva a stare in casa. Lasciò aperta la porta del suo laboratorio e se ne andò vagando per la città, ma non riusciva a stare in città, e se ne andò per i boschi e le pianure. Ma non tollerava la vista e il canto degli uccelli e tornò presto nelle strade. Qui, talvolta, nei suoi vagabondaggi, si fermava di fronte a un uccellaio e rimaneva a lungo ad osservare gli uccelli in gabbia. Quando i suoi amici gli parlavano, egli non li riconosceva, ma quando i monelli della strada lo schernivano e gridavano «Guarda il Softa, quello che credeva Tusmu fosse un angelo!» Si fermava, li guardava e diceva: Lo credo ancora. Non ho perso la fiducia nella danzatrice, ma negli angeli. Oggi non ricordo più come da giovane mi immaginavo l'aspetto degli angeli. Sento che debbono essere terribili da guardare. Chiunque sia nemico degli angeli è nemico di Dio, e chiunque sia nemico di Dio non ha più speranza. Io non ho speranza, se senza speranza non si può volare. Ecco perché non ho pace. Così fu che lo sventurato giovane vagò per un anno. Io stesso da bambino l'ho incontrato nelle strade, avvolto in un logoro mantello nero e in un ancor più buio manto di eterna solitudine. Alla fine dell'anno se ne andò e a Shiraz nessuno lo vide più. Questa, disse Mirajama, è la prima parte del mio racconto. Ma molti anni dopo, quando da giovanetto cominciai a narrare favole per deliziare il mondo e renderlo più saggio, intrapresi lunghi viaggi verso le rive sabbiose e i villaggi dei pescatori di perle, perché volevo udire le avventure di quegli uomini e imparare a raccontarle. Tante cose accadono, infatti, a coloro che si tuffano in fondo al mare. Le stesse perle sono frutto del mistero e dell'avventura. Chi segue la carriera di una perla raccoglie tanto materiale da trarne 100 favole. E le perle sono come le favole dei poeti, un malanno trasformato in bellezza, e allo stesso tempo trasparente e opaco, segreti del profondo portati alla luce per piacere alle giovani donne che vi riconoscono i più profondi segreti racchiusi nel proprio cuore. Più tardi, nella vita, ho riferito ai re con grande successo, le storie che mi erano state un giorno narrate da questi umili e semplici pescatori. Nei loro racconti ricorreva spesso un nome che mi incuriosì, tanto che li pregai di dirmi di più sulla persona che lo portava. Allora mi raccontarono che quell'uomo era diventato celebre tra loro a causa della sua audacia e della sua eccezionale ed inspiegabile fortuna. Infatti, il nome di El Nasred, che essi gli avevano dato, significava nel loro dialetto persona fortunata o felice e contenta. Si tuffava negli abissi più profondi e ci rimaneva più a lungo di qualsiasi altro pescatore. E le ostriche che riportava alla luce contenevano immancabilmente le perle più belle. Nei villaggi dei pescatori di perle credevano che egli avesse laggiù nel fondo del mare una creatura amica, forse una giovane e bella sirena o chissà un demone del mare, che lo guidava. Mentre gli altri pescatori erano sfruttati dalle loro compagnie commerciali e rimanevano poveri tutta la vita, il fortunato si era fatto un bel patrimonio personale. Aveva comperato nell'interno una casa col giardino, vi aveva condotto a vivere la madre e aveva dato moglie ai suoi fratelli. Ma per il proprio uso teneva sempre una piccola capanna sulla spiaggia. Nonostante la sua fama demoniaca, era, a quanto dicevano, in terraferma e nella vita quotidiana, un uomo pacifico. Io sono un poeta e alcuni particolari di quei resoconti evocarono in me racconti di un tempo passato, ma decisi allora di indagare su quest'uomo fortunato e di indurlo a raccontarmi qualcosa di sé. Dopo averlo cercato invano nella sua bella casa con il giardino, una sera andai alla sua capanna sulla spiaggia. La luna in cielo era piena. Le lunghe onde grigie venivano avanti una alla volta e tutto quanto era attorno a me sembrava deciso a serbare un segreto. Osservai ogni cosa e sentii che stavo per ascoltare e per comporre una storia meravigliosa. L'uomo che cercavo non era nella capanna, ma stava seduto sulla rena a guardare il mare e ogni tanto vi gettava dentro un sassolino. La luna lo illuminava e vidi che era un uomo piuttosto grasso e che il suo aspetto sereno esprimeva davvero armonia e felicità. Lo salutai con reverenza, gli dissi come mi chiamavo e gli spiegai che mi piaceva passeggiare nella notte tiepida e chiara. Egli mi ricambiò il saluto con cortesia e benevolenza e mi riferì che già gli era nota la mia fama di giovane desideroso di perfezionarsi nell'arte del narratore. Poi mi invitò a sedermi vicino a lui sulla sabbia. Per un momento parlò della luna e del mare, ma dopo una pausa osservò che da molto tempo non udiva narrare una favola. Non avrei voluto narrargliene una ora che stavamo seduti così piacevolmente nella notte tiepida e chiara. Ero ansioso di dimostrare la mia abilità e pensavo inoltre che ciò poteva servire ad aiutarmi nel mio scopo. Frugai allora nella mia memoria per tirarne fuori un bel racconto. Non so perché la storia dello studente Saufe seguitava ad occuparmi ancora la mente. Allora, con voce bassa e dolce, intonata alla luna e alle onde, cominciai. A Shiraz viveva un giovane studente di teologia. L'uomo, felice, ascoltò, calmo e attento, ma quando arrivai al brano riguardante gli innamorati sul tetto della casa e nominai la danzatrice Tushmu, egli alzò una mano e la guardò. M'ero dato molta pena di inventare questa bella scenetta al chiaro di luna, ed essa era cara al mio cuore di poeta. Riconobbi il gesto e gridai con grande stupore e preoccupazione: «Tu sei il Softa Saufe di Shiraz!» «Sì», disse l'uomo felice. Il poeta, al quale si rivela che una propria invenzione è un fatto realmente accaduto, rimane esterrefatto. Io ero appena un ragazzo e nella mia arte ero un novizio. I capelli mi si rizzarono sul capo e poco ci mancò che non m'alzassi e scappassi via. Ma nella voce dell'uomo felice c'era qualcosa che mi tenne fermo al mio posto. Una volta, disse, avevo molto a cuore il benessere del Softa Saufe del quale mai parlato adesso. Ma ormai l'ho quasi dimenticato, ma mi fa piacere che gli sia entrato a far parte di una favola, perché questo è forse stato lo scopo della sua vita, e in avvenire ce lo lascerò, fiducioso. Vai avanti col tuo racconto, Mirajama, narratore, perché voglio ascoltarne la fine. Tremai alla sua richiesta, ma i suoi modi mi affascinarono nuovamente e mi permisero di riprendere il filo del mio racconto. Dapprima sentii che egli onorava me, ma subito dopo, proseguendo, sentii che a mia volta io onoravo lui. Il mio trionfo di narratore mi colmava il cuore di gioia. Narrai la mia favola in modo molto commovente e quando l'ebbi finita, lì su quel sabbioso versante marino, solo con lui sotto la luna piena, avevo il viso bagnato di lacrime. L'uomo felice mi confortò e mi pregò di non prendere troppo a cuore una favola. Allora, quando ritrovai la voce, lo supplicai di dirmi tutto quanto gli era accaduto dopo che aveva lasciato Shiraz, perché sulle sue avventure negli abissi marini e sulla fortuna che gli aveva dato la ricchezza e la fama tra gli uomini si sarebbe potuto certamente comporre una storia bella quanto quella che gli avevo narrato e più gaia. Principi, grandi dame e danzatrici amano, gli spiegai, una storia triste, come l'amano i mendicanti sotto le mura della città, ma io intendevo essere narratore in tutto il mondo e gli uomini d'affari e le loro mogli vogliono novelle a lieto fine. L'uomo felice rimase un momento in silenzio. Ciò che mi è accaduto dopo che ho lasciato Shiraz, mi rispose infine, non può far parte di una favola. Sono famoso tra gli uomini, disse, perché sono capace di restare in fondo al mare più a lungo di loro. Se vuoi, questa capacità è una piccola eredità del Softa di cui mi hai narrato la storia, ma non può essere una favola. I pesci sono stati buoni con me e non tradiscono nessuno, e questa non può essere una favola. Tuttavia, proseguì, dopo un silenzio ancora più lungo, in cambio della tua favola e per non scoraggiare un giovane poeta, sebbene ciò non possa essere una favola, ti dirò ciò che è accaduto dopo che ho lasciato Shiraz. Allora, egli cominciò il suo racconto ed io lo ascoltai. Tralascio la spiegazione di come sono andato via da Shiraz e sono venuto qui, e intraprendo il racconto delle mie avventure soltanto da dove esse potranno essere gradite agli uomini di affari e alle loro mogli. Perché, quando scesi per la prima volta in fondo al mare, alla ricerca di una certa perla rara alla quale in quel tempo avevo molto pensato, una vecchia sirena, con gli occhiali cerchiati di corno, mi prese per mano. Quando era stata un pesciolino piccolo piccolo, era stata presa nella rete da due vecchi pescatori e aveva trascorso un'intera notte nella loro barca, immersa nell'acqua della sentina, e aveva ascoltato i discorsi di quegli uomini che dovevano essere d'animo saggio e pio. Al mattino, però, quando la rete era stata tirata sulla spiaggia, era scappata tra le maglie e aveva nuotato via. Da allora sorride alla diffidenza che gli altri pesci hanno degli uomini, perché in realtà, ella spiega, se un pesce sa come comportarsi, non gli è difficile giostrarsi tra loro. Ha perfino finito per interessarsi della natura e degli usi dell'essere umano e spesso fa conferenze su questo argomento davanti a un pubblico di pesci e le piace anche discuterne con me. Io le debbo molto, perché ha un'alta posizione nel mare e come suo protetto sono stato ricevuto ovunque e le debbo molto anche per la ricchezza e la fama che, come mi hai detto, hanno fatto di me un uomo felice. Le debbo ancora di più perché nelle nostre lunghe conversazioni ella mi ha fatto partecipe della filosofia dalla quale ho tratto la pace. Ecco ciò che ella sostiene. Il pesce, ella proclama, è, tra tutte le creature, quella più attentamente ed esattamente fatta immagine del Signore. Tutte le cose operano insieme per il suo bene, e perciò possiamo concludere che questa creatura assolve a questo suo fine. L'essere umano può aggirarsi soltanto su un piano, ed è legato alla terra, eppure la terra lo sostiene soltanto nell'angusto spazio che sta sotto le suole dei due piedi di lui. O di lei, perché egli deve sopportare il proprio peso e sospirare sotto ad esso. Da quanto ho capito, ascoltando quei vecchi pescatori, egli deve arrampicarsi su per le colline mentre può accadergli di rizzolarne giù, e allora la terra lo riceve con durezza. Anche gli uccelli che hanno le ali, se non tendono le ali, sono traditi dall'aria nella quale si muovono e gettati giù. Noi pesci, invece, siamo sostenuti e sorretti da ogni lato. Noi posiamo fiduciosi e armoniosi sul nostro elemento, noi ci muoviamo in tutte le dimensioni. E qualunque sia la rotta che prendiamo, le acque potenti, in ossequio alla nostra virtù, mutano forma per adeguarsi alla nostra. Non abbiamo mani e non possiamo quindi costruire nulla, e non siamo mai tentati dalla vana ambizione di alterare ciò che fa parte dell'universo. Noi non seminiamo e non lavoriamo, quindi nessuna valutazione di noi può risultare falsa, e nessuna speranza può essere delusa. I più grandi di noi hanno raggiunto nelle loro sfere il buio perfetto. Leggiamo agevolmente il disegno della Terra perché lo vediamo da sotto. Noi ci portiamo dietro, navigando qua e là, ragguagli su avvenimenti che sono perfettamente in grado di provarci la nostra posizione privilegiata e di mantenere viva la nostra reciproca solidarietà. Essi sono noti anche all'uomo e hanno perfino un posto importante nella sua storia. Ma l'essere umano si fa delle cose un'immagine generale, tanto puerile da intenderle in modo piuttosto confuso, ma te li riferirò. Quando Dio creò il cielo e la terra gli dette alcune amare delusioni. L'uomo, capace di cadere, cadde quasi immediatamente, con lui cadde tutto ciò che era sulla terraferma. Dio allora si pentì di avere creato l'uomo, gli animali terrestri e gli uccelli dell'aria. Ma i pesci non caddero, né cadranno mai, perché come e dove cadremmo? Allora Dio guardò con benevolenza i pesci e fu confortato dalla loro vista, perché fra tutte le cose create, essi furono i soli a non deluderlo. Decise quindi di ricompensare i pesci secondo i loro meriti, e tutte le fontane degli abissi furono aperte, e tutte le finestre del cielo furono spalancate, e le acque dei flutti salirono sulla terra, e le acque prevalsero, e furono accresciute, e tutte le alte colline che erano sotto la gran volta celeste furono ricoperte, e le acque prevalsero in modo sconfinato, e ogni cosa di carne che si muoveva sulla terra morì, volatile o bovino, bestia o uomo che fosse, e tutto quanto era sulla terraferma morì. Dandoti questo resoconto, non voglio soffermarmi a lungo sulla delizia di quell'età e di quello stato, perché ho compassione dell'uomo e ho tatto. Tu stesso, prima di trovare la strada per giungere fino a noi, ti sarai forse dedicato agli armenti, ai cammelli e ai cavalli, o avrai tenuto piccioni e pavoni. Sei giovane, e può darsi che tu ti sia recentemente affezionato a una creatura siffatta, della tua stessa specie, eppure è simile a un uccello, già che nomini una giovane donna. Eppure, peraltro, sarebbe meglio per te che non fosse così, perché ricordo le parole dei miei pescatori, secondo i quali una giovane donna farebbe provare al suo amante il dolore del fuoco, e tu potresti altrimenti attaccarti a una delle mie stesse nipoti, giovani creature insolitamente salate, che non faranno mai provare a un amante il dolore del fuoco. Dirò, in breve, che abbiamo avuto 150 giorni di abbondanza e che questa benedizione è apparsa con la cornucopia ricolma. Inoltre, e questa volta per mio bene, secondo il saggio e provato uso del pesce, sfiorerò appena il fatto che l'essere umano, sebbene caduto e corrotto, riuscì nuovamente, grazie alla sua arte, a risalire a galla. Tuttavia, c'è ancora da dubitare se attraverso questo trionfo apparente l'uomo abbia ottenuto il vero benessere. Come potrà una creatura ottenere una reale sicurezza? Una creatura che è sempre ansiosa di trovare la direzione in cui muoversi e annette importanza vitale alla sua ascesa e alla sua caduta. Come può raggiungere l'equilibrio una creatura alla quale non voglia rinunciare all'idea della speranza e del rischio? Noi pesci riposiamo tranquilli, sorretti da ogni lato in un elemento che sempre, in modo preciso e infallibile, riesce a equilibrarsi. Un elemento che, si può ben dirlo, prende il posto della nostra stessa esistenza personale, dato che, senza badare alla nostra forma individuale o al fatto che noi si sia pesci piatti o pesci rotondi, il nostro peso e il nostro corpo sono calcolati secondo la quantità di materia circostante che spostiamo. La nostra esperienza ci ha provato, come un giorno te lo proverà la tua, che si galleggia benissimo senza speranza, anzi, che si galleggerà meglio quando non l'avremo. Di conseguenza, poi, la nostra fede prescrive che per noi ogni speranza è caduta. Non corriamo rischi. Mutar luogo d'esistenza non crea né provoca per noi ciò che l'uomo chiama un comportamento, fenomeno, in realtà non è un fenomeno ma un'illusione, sul quale egli spreca un'inesplicabile e appassionata forza di volontà. L'uomo, infine, è preoccupato dall'idea del tempo e mette a repentaglio il proprio equilibrio vagando incessantemente tra il passato e l'avvenire. Gli abitanti di un mondo liquido hanno congiunto il passato e l'avvenire nella massima après nous, le déluge, dopo di noi, il diluvio. Fine.